quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Quattro mattino di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Ci risiamo! Ci risiamo, cari ascoltatori, sempre la Grecia ha rivinto Tsipras. Certo, dovrà fare il governo con qualcuno, ma ha rivinto Tsipras ed esultano, cantano. Sorry, but Syriza doesn't exist anymore. What we've had after the 12th of July. Syriza non esiste più, dice in inglese. Indovinate chi? Il nostro amico Varoufakis. Syriza non esiste più, Varoufakis. Queste note risuonavano ieri in piazza Sintagma. Bandiera rossa, canzone che neppure un vincino ha mai cantato. Forse lui sì, l'avrà cantata tanti anni fa. Vincino, tu la cantavi ovviamente. Assolutamente, poi è bellissima. Andando in motocicletta la canto sempre. Io. Anche adesso, assolutamente. No, vabbè. Bellissima. Sarai contento dunque? No, sì, ma io non ho capito però, ma quelli là di Varoufakis sono entrati o no? Ma secondo te? Perché guarda che devo seguire anche gli exit poll, il Mentana che avrà fatto la diretta notturna al Mentana di Grecia, e dai su! Anche questa cantavano. Cioè cantavano, erano dei dischi, perché non penso che pronunciassero così bene le parole. Ma questo è facile abbastanza, più o meno. Ma no? Per un greco. Per i greci, guarda, i greci, l'italiano gli viene facile, no? Sì. Io avevo un sacco di amici greci. E parlano italiano. Ale. Imparavano facile. Senti, non lo so se sono entrati quelli di Varoufakis, so perché? Che però Alba Dorata ha raggiunto il 7%, non ha mai raggiunto livelli del genere. Alba Dorata sono, come dire. Come li dobbiamo definire, Vincino? Fallo tu. Quelli, come si chiamano? I Casa Pound greci. Ma mi sa che sono un po' misto più di... tra Casa Pound e cose, 5 Stelle. Sono esattamente... No, perché loro leader in galera per omicidio e cose. No, era una cosa tra di là. Tra Casa Pound e 5 Stelle. No, ma guarda, con Menos, quello là che farà, quello di destra, che per esempio il 3,3%, sì. No? Sì. Che farà l'alleanza con Cipro. Io non capisco. C'è un partito che trova sempre il 3,3%. È un Alfano di Grecia, sì, ma avrà avrà pure lui qualche paesino in Sicilia dove prenderà il 40, il 50. Non può essere, può essere. Come, sono dei miracoli statistici. Sì. Comunque. No, ma Renzi è pure io, come dire, Renzi l'ha anticipato pure io, è gasatissimo. Ah, Renzi per questo. Ci arriviamo con calma, alle 6:33 minuti. Intanto fammi salutare Federico Novella, direttore. Direi promosso sul campo. Sì. Puoi entrare, puoi arrivare alla barra di Mediaset e dire: buttate giù sta barra, che sono direttore. Certo, è con arroganza, va bene, grazie, professore. Conduce Mattino 5 dalle 9 e buongiorno. Il nostro Federico, però Federico qua sì, come si suol dire, si sta perdendo tempo perché c'è in realtà una questione da chiarire. Prova a girarsi, Bacca, rete! Eccola qui! Mirali in vantaggio! Bacca. Eccola qui la questione da chiarire. Qua volano dollaroni, lo sai. Prova lui, a giro, rete! Lo sai, caro Federico Novella, che volano euroni adesso? Ma dove? Ma perché? Ma perché abbiamo battuto il Palermo di Vincino e avevamo fatto una scommessina. Bacca, che riesce a girare, rete! Rete! Rigore! Avevate l'arbitro. Ma quella è la Juve, no, dai, poi c'è Bacca, no, quella la Juve era bravissimo, Avevamo... sembra evidente che quest'anno noi non abbiamo pagato, come del resto anche gli altri anni, nessun tipo di è arbitro. Bene precisarlo, Federica, hai fatto bene a precisarlo. Hai fatto... ma in particolare come mai, quest'anno come ma mai ti è venuto da precisarla questa cosa? Niente, ma giusto per smentire queste strane voci che ogni tanto girano. Nessun arbitro è stato comprato, visto che Com'è che dicevano i latini? Excusatio non petita, no, accusatio manifesta. Questo è inglese la mattina, non parlo inglese la mattina. Allora, avevamo fatto questa piccola scommessa: se vinceva il Palermo io davo 30 euro a Vincino, se vinceva il Milan lui 10 euro, perché il Palermo è una squadra di spiantati, e quindi gli davo. Ho perso e quindi va bene. Non si può pagare in vignette. Ma problema è coraggiosa. Mi farà vignetta, ti faccio così un angolino di vignetta. Bravo, 10 euro. Non è che fa manco un piede di renti, ci viene in coso. Allora mi accontento, caro Vincino. Un così... orecchio di renti, te lo disegno questo orecchio e via. Allora facciamo un po' come se io fossi Bruxelles e tu la Grecia. Allora se mi fai una vignetta completa ti sconto 10 euro, ok? Io te la faccio per simpatia e per affetto. No, perché sono la Grecia, insomma. Ti faccio sta vignetta. Va bene, e siamo amici come prima. La reazione mattutina è già finita. Ecco. Esatto, apriamo il Parlamento. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. Allora, intanto oggi c'è la resa nei conti della direzione del PD, battaglia. E noi infatti 400esima resa dei conti. Bersani che dice l'accordo è un millimetro, la pazienza degli italiani invece è strafinita. E vabbè, tu Federico Novella che dici, ci sarà la resa dei conti? Ma non lo so, io ti dico solo che quando apro il giornale sento parlare del Senato, io vado direttamente alla pagina cultura e spettacolo. È già buono che non va in cantina a rispolverare il fucile del nonno. Esatto, cioè, una roba che ormai c'è l'orticaria per questa cosa del Senato. Sì. Decidano se lo vogliono abolire, lo aboliscono. Se non lo vogliono abolire, lo tengono. Sì, cioè, se lo vogliono elettivo, lo facciano elettivo. Se non lo vogliono elettivo. Io una cosa non ho capito. Una sola. Nel nuovo Senato ci sarà sempre un presidente del Senato? Penso proprio di sì. Che sarà la seconda carica dello Stato? Guarda che sono drammi. Federico Novella, oggi alle 9 lancerai questo sondaggio e questa domanda agli ascoltatori. Se gliene frega qualche cosa. Sì, penso di sì, perché seconda carica dello Stato vuol dire che se il Presidente della Repubblica c'ha il febbrone lo sostituisce il Presidente del Senato. Pericoloso avere un consigliere regionale che sostituisce il Presidente della Repubblica. Effettivamente, vedete che Vincino trova sempre. Vallo a dire a Bersani che fa saltare l'accordo per questa cosa. L'accordo a un millimetro, ma Vincino pone questa problematica. Vincino presidente del Senato. Ma infatti, Vincino. Io sarei felice, mi divertirei molto. Però poi il giorno dopo abolirei il Senato. Ma ancora più divertente. Che faresti come quello che abolisce? No. Che faresti come prima cosa quando non so, uno del Movimento 5 Stelle si alza e dice al Senato: "Fate schifo". Tu sei il presidente del Senato, Vincino. È una bella domanda, messa là così. No, io come dire, sul fate schifo sono d'accordo, facciamo schifo, però il linguaggio non lo so, guarda, mi fa una domanda imbarazzante. Va bene, ti faccio una domanda imbarazzante. Come finirà questa resa dei conti? Non lo so. Senti qua, visto che volete sentire dichiarazioni sul Senato, la Boschi dice vediamo, ma più che altro vediamo come lo dice, vediamo se comunque siamo aperti al dialogo, la Boschi dice questo. La porta del dialogo è sempre aperta, credo però che sia giusto che non ci siano veti, sicuramente non ci sono da parte della maggioranza, a maggior ragione non devono esserci da parte della minoranza. Nessun problema per il governo, per la tenuta. Ragazzi. Le stai dando ragione senza neanche aver capito. No, devo dire che la Boschi ha detto una cosa invece condivisibile. Ha detto, pare, in una festa a Torino, una di queste feste bazzicate da Vincino, le feste dell'Unità. Trovino una pizzeria, si mangino una pizza, si mettano d'accordo e ci dicano che quello che vogliamo fare, quello che vogliono fare. Che poi la pizzeria è ciò che vogliono fare del Senato, no? Esatto. Cioè, ma Vincino, ma anche la Boschi è stupenda, dimmi. No, anche tu che segui tutti i giorni Camera, sì, Senato, sì, eccetera. Sì, sì, ma non sì. ti sei annoiato un po' di sta? Non ti sei annoiato? Ma io più che le cose, io seguo i contorni, le cose, cioè per dire, la Boschi è stupenda, una voce meravigliosa, no? Ha ragione solo per la voce, appunto. L'architettura del Senato, il coso, queste cose qua, io vado in giro, annuso umori, se le statue, come dire, non seguo poi il poi dopo quello che dicono dentro, secondo che me ti frega. Renzi va là, saluta Bersani così, ciao Varoufakis, come stai, via, come dire, e lo fa fuori, cioè Renzi dopo la cosa di ieri, il Varoufakis di Bettola, Allora sentite Calderoli pare che abbia in serbo di presentare 8 milioni di emendamenti, poi basta nel Senato perché... A levare il computer a Calderoni. Sì. Con un algoritmo, ha trovato un algoritmo per fare 8 milioni di emendamenti. Sì, ma molto lo buco sta algoritmo, dai, 8 milioni, dai. Sì. Senti qua Calderoli, Ci troviamo davanti a una grande commedia, l'intesa scricchiola, ma qui l'intesa non c'è mai stata con nessuno, siamo veramente di fronte a una commedia dove qualcuno, il gatto Renzi e la volpe Boschi, cercano di convincere gli antagonisti a votare una riforma. Il gatto e la volpe era dalla nostra Maria Latella su Sky, eccolo qui. Vabbè Federico... No, ma sai cosa, speriamo che questa telenovela del Senato, di cui... francamente non ne possiamo più, finisca prima possibile. Mi dispiace soltanto che comunque di fatto, questo vale per tante altre cose, il governo sta procedendo un po' a colpi di maggioranza anche su una cosa importante come questa, no? Sì. Cioè, il governo sta dicendo noi andiamo avanti, e poi se non va bene poi ci penseremo al referendum. È l'accusa dei Bersani, è l'accusa della minoranza. Che va bene, però è un precedente un po' pericoloso, nel senso che allora anch'io fra 5 anni mi posso svegliare e dico Vincino presidente del Senato. Facciamo un club Juve al posto del Senato, poi, ecco, poi facciamo il referendum. Ecco, no? Ecco, si può fare. Se è la maggioranza, assolutamente. Ma sì, se è la maggioranza, esatto. La cosa divertente è questa qua, che in realtà la riforma è già ottenuta. Cioè, allora ti racconto, in Sicilia metà dei consiglieri regionali sono passati dall'opposizione al governo, così immediatamente, ex Forza Italia, Micicche, cose qua, tutti. Al Senato ci sarà la stessa cosa, esattamente. Sì, non ho letto, grandi lamentele sui giornali di questa compravendita. Ma più che una compravendita è un'autopromozione. Ci sono i senatori che corrono, c'è un posto in commissione là, ci sono sono per il governo da sempre. Ma che era un feroce il famoso carro del vincitore. Nessuno fa niente però allora tutto per loro. Allora se parliamo ancora 10 secondi del Senato, la gente ci via, butta dai balconi. Torniamo ai 5 Stelle. Allora, visto che hai detto torniamo ai 5 Stelle, c'è questo messaggio di Roberto. Dite a Vincino che il Movimento 5 Stelle salverà anche lui, quindi salveranno anche te. Caro ma Vincino, io veramente sto bene così, come dire, qua da cosa devi solo, essere salvato? Non lo so da cosa deve essere salvato, ma è niente del niente, dai, cioè non Obiettivamente non è niente, è un così, è un umore di destra messo là, consolidato e via, contro i migranti, di piccola borghesia genovese, così rancorosa. Sì, un umore di destra, è rancorosa, assolutamente, non, senza idee, senza niente, senza. Ma non era Grillino, Vincino? Sì, Grillino sì. C'eri tu e tuo nonno, assolutamente. Ora ci arrabbiamo, Grillino. Cioè, allora puoi dargli del figlio di buona donna. Anche tu. Federico, se vuoi dargli tranquillamente del figlio di buona donna, va bene. Io ero rimasto che lui fosse Grillino, poi magari mi sbaglio. Allora insisti. Allora va bene. Già è rovinata la giornata, rovinata, gliel'hai disintegrato. Ma con così poco, Vincino, ma è possibile. Vabbè, se lui si sente offeso, reagisce così. Vorrei sapere da Vincino se il Colosseo, tu che ci passi sempre in moto una volta, mi hai anche portato in moto, raccontatemi tutti gli angoli di Roma. Se è aperto oggi? Beh, oggi sono le 6:44. Sarà aperto? Allora, io qua da Mondello. Modello vicino a Palermo, lo vedo, però ma ieri c'è stato uno che ha detto, ma insomma, ma pagateli e pagateli bene questi poveretti qua, che cavolo, ma perché non gli dovete dare gli straordinari? Non ho capito, io gli raddoppierei lo stipendio e basta, una paga giusta, come, che però arrivi a fine mese, se c'è paga, no, ma gli straordinari da un anno, ma dateglieli senza che loro, cioè proprio senza che loro debbano fiatare, cioè noi stanno dentro il monumento più importante del mondo, li voglio pagati benissimo, come se fossero dentro un giornale che vende miliardi di copie. Sentite qua, la Camusso. Ma guarda che stiamo diventando uno strano paese in cui l'assemblea sindacale è diventata una cosa che non è possibile fare. Eccolo qui, non si possono più fare le assemblee sindacali, però Federico, una vergogna clamorosa, una vergogna mondiale. Bisogna garantire diritti a tutti, giustamente come dice Vincino, però ci sono dei luoghi che ci fanno riconoscere nei confronti di tutto il mondo che non possono chiudere con una tabaccheria. Il Colosseo non è una tabaccheria. Ma perché un anno e mezzo d'arretrato a questi allora qua? Su questo devo dire che anch'io quando l'ho visto ho detto una vergogna, che schifo, che tutti non ti paga da un anno e mezzo, no, esatto, poi ho detto ma cavolo, ma questi non prendono da un anno e mezzo gli stipendi, gli straordinari che dovrebbero prendere, e non possono fare un'assemblea sindacale. Certo, l'immagine di un'assemblea sindacale del genere è devastante per l'opinione pubblica. Qualcuno che avrebbe dovuto scongiurarla questa assemblea sindacale, ma la sto prendendo con loro, sto dicendo. Franceschini è un deficiente totale, è un romanziere fallito, guarda, un romanziere fallito, un vice segretario di peggio ancora, lui era vice segretario di coso, di Veltroni. Vabbè, niente, novella di fronte a queste offese nei confronti di Franceschini. È caduto. Come ha detto prima, diceva novella, la sbarra di Canale, è la sbarra di Mediaset. Sì, appena, e sono gli servizi segreti, appena si avvicina Mediaset saltano tutte le comunicazioni per evitare insomma cose, comunicazioni segrete. Come diceva Vincino, prima ha detto novella, come diceva il Grillino Vincino, bisognerebbe dire d'ora in poi. Andiamo al traffico. Brum, c'è il traffico, Milan. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta. Ma con questo bicameralismo perfetto, cosa cavolo fanno tutto il giorno questi senatori? Ok Milan, ma la tua trasmissione mattutina è diventata veramente una trasmissione spazzatura. Devi cambiare. Ciao. Milan, per mezz'oretta in più di chiacchiere ha dovuto raddoppiare la pubblicità. Altro che Camusso, Milan. Vorrei dire che è veramente una vergogna, è vergognoso che la Camusso prenda 3.800 euro al mese, è una cifra ridicola, è bassissimo, c'è da vergognarsi, cioè una delle persone più importanti, rappresenta la maggior parte dei lavoratori italiani, guadagna 3.800 euro al mese, fa ridere, è patetico, è penoso, è troppo poco! L'ottavo solo della vaga ironia, ma secondo me non è veramente tanto 3.850 euro, per Camusso. Scusami, sì. Netti vuol dire netti. Lordi sono 8.000 euro al mese, sì. Lordi. Ho capito, ma cioè, è a fine carriera. Da 8.000 lei, da 8.000 ma a fine carriera euro. È leader della CGL. Ho capito, ma vabbè, so. Ma come dici, 8.000 euro mica sono pochi. Federico, sei tornato tra di noi? Sì, ma è strano perché appena Vincino ha insultato Franceschini, tu sei scappato. Mi è caduta la linea, è caduta la sbarra. Ma come è caduta la sbarra? Ma sì, è successo, non so in base a quale principio sono cadute tutte le comunicazioni. Quindi, tutto. Non so, mistero, mistero. Mistero, mistero. Ah, lavori a mistero, conduci mistero adesso. No, ho cambiato, sai com'è. No, ma non lo so, stavo sentendo le vostre cose sulla Camusso. Sì, sì. Quei soldi se li sarà, no, se li sarà guadagnati in base alla sua carriera. No? A 3.850 deve... euro, sì, vabbè, ma adesso... Non è che deve guadagnare come un operaio del... così dell'alto no, corso, perché rappresentandoli tutti dovrebbe guadagnare quanto tutti gli operai effettivamente. Beh, no dai, non è vero, dai, avrà fatto, no, ma scherzo, ma infatti secondo me non è 3.850 euro, sta per andare credo in pensione, perché insomma ha un'età più o meno, non è uno stipendio clamoroso, però Vincino, esatto. Poi se c'è qualche grillino che vuole tagliargli lo stipendio, vabbè. Vincino? Non lo so, Vincino. No. Dico, però sono 8.000 euro, diciamo. Ho capito, ma Lordi, ma quello è per la tassazione. Lordi, io infatti quando l'ho visto ho detto, penserà anche lei a quanto costa, quante sono le tasse sul lavoro, certo, ogni volta che gli arriva lo stipendio con 7.000 rotti lordi e poi gli rimangono 3.850 netti. Comunque, visto che l'hai chiesto a gran voce, Vincino, sentiamo Franceschini, allora il ministro alla cultura Franceschini, che pensa di questa cosa del Colosseo. L'assemblea era autorizzata secondo le regole attuali, il risultato è quello che avete visto, i turisti fuori in fila, e quindi bisogna cambiare le regole, è quello che stiamo facendo. Eccolo qua. Oh. Cioè, quando non gli va bene loro cambiano le regole, pappa, subito, tac, veloce. Hanno fatto un decreto. Effettivamente, anch'io non ho capito questa cosa, ma ci voleva un decreto d'urgenza, perché c'era l'assemblea per dire che adesso i musei sono come gli ospedali, non si possono chiudere. Insomma. Che poi ha detto mica tutti, per aspetta, il Colosseo, ma mica il piccolo museo di là, insomma. Certo, il Colosseo. È il museo, il monumento più visitato al mondo. Ma pagassero gli arretrati, con premi di produzione, ancora. Li facessero felici. Per la storia della politica del senno di poi, ci hanno messo una pezza, ma quando il danno era già fatto. Sì, effettivamente è così. Tu Federico che fai oggi? Io oggi, oggi parliamo di... Non te lo cose... ricordi? No, non me lo ricordo. No, parliamo sostanzialmente di un caso di bullismo, che è di un ragazzo che lavorava in quella carrozzeria e si è tolto la vita dopo delle foto che non si sa bene se siano delle foto violente o meno. Come no, effettivamente. Un caso veramente molto, caso molto drammatico. Sì. Molto, esatto. Vabbè, e qui i messaggi continuano ad arrivare. Ciao Vincino, tieni duro che i 5 Stelle non salvano nessuno. Invece ci dice un altro ascoltatore che dice quindi non cadere in tentazione del Movimento 5 Stelle. Lo sai qual è? In questo momento c'è lotta politica. A chi è il vero interprete del pensiero di Grillo e Casaleggio? Cioè, come si fa un movimento in cui la lotta politica tra il 5-6 è questa qua? Sì. Beh, però nessuno ha il coraggio di dire, ma quale nuova? Ci sono dei giovani che stanno spingendo per avere... Quali dei giovani stanno spingendo? Nessuno dei 5-6 ha il coraggio di dire, io voglio fare questo e quest'altro e mi candido a dirigere il movimento. Comunque però... sappiate che per non seminare zizzania, io l'ho messo appena adesso su Twitter, Federico Novella, ma Vincino non era Grillino e Vincino Grillino sei tu e tuo nonno, così abbiamo il titolo di così abbiamo puntata, fatto litigare Federico Novella, okay. Vincino, i grillini e la rete si scatena. Ma sentite qui Bersani, siamo quasi in conclusione. Bersani proprio per concludere sul Senato, visto che abbiamo iniziato con quello, perché oggi c'è la resa dei conti nella direzione del PD. Bersani non riesce, c'è un dramma. Bersani c'è un dramma suo, non riesce a fare una cosa. Sentite, io con Errani sono amico fratello. Mi ha sostituito in regione, con Enrico Letta sono amico fraterno, mi ha sostituito al ministero, perché non riesco a essere amico fraterno con Renzi? Ecco, per ecco, questa è la domanda, perché, questo è il dramma di Bersani, perché non riesco a essere amico fraterno di Renzi? Che è come Balotelli che twitta, perché non riesco a trovare l'amore vero? Sono quelle cose, sono quelle domande... Chiamiamo l'assistenza psicologica. Vincino, perché è voluto un'alluvione per svegliarla Bersani, guarda. Assicuro. Vincino, ma... stava zitto e buono fino a quando è stata l'alluvione, è arrivato Renzi là, quattro pacche a pettola e via. È cominciato. Ma perché non è amico suo? Ma cosa, perché? Cosa, qual è la chimica che non è scattata tra i due? Facciamo qualcosa. Facciamo qualcosa. Questa cosa mi addolora profondamente. Va bene, io in conclusione attendo allora la vignetta completa di Vincino per saldare i nostri debiti, così su che la vuoi? E no, non lo so, è massima libertà, sai che noi siamo per la libertà, perché io lavoro su ordinazione, eccomi qua, soprattutto libertà tua. La facciamo sui 5 stelle, vai, dai. Va bene, sui 5 stelle Milan, vi lascio, d'accordo. Ottimo, ottimo, vi lascio con questo titolo, con questo titolo. Io sono per la libertà, anche la libertà di caccia, ma oggi quando ho letto il titolo "spara al fagiano, uccide il fratello", non lo so, non lo so. Ci pensiamo un po'. Non lo so, sono quei titoli sui quali ti fermi un attimo. Spara al fagiano, ma uccide il fratello, non del fagiano. Vi saluto, ragazzi. Bacca, che riesce a girare! Rete! Rete! Che gol, Bacca! Incredibile! Milan ancora in vantaggio, 3-2. Il segnale orario vi è offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Anquo Alessandro Mina e leggerai i giornali come uno che legge i giornali. E che tanti scherzi? 24 mattino. Evviva cari ascoltatori, sono le 7:19 minuti ed è la 125esima settimana decisiva per l'abolizione delle province che comincia. Mi hanno detto che comincia ad annoiare il conteggio. E io mi annoio di più. Sono d'accordo con voi, sono annoiatissimo di contare. Non vedo l'ora di smettere, quando aboliranno le province io smetterò. Ma mi sa che annoierò più io voi di quanto loro non annoino me. Allora, 7:19 minuti, oggi parleremo un po' dell'attualità politica, ma non solo, le polemiche ancora a Roma, perché il Colosseo è rimasto chiuso per un paio di ore o due o tre ore, venerdì scorso con tutti in fila i turisti, avremo ospite Claudio Velardi, avremo ospite Alessandro Robecchi, avremo ospite anche, pensate, un senatore, il senatore Giuseppe Vacciano, che cerca di dimettersi dal Senato, lui vorrebbe dimettersi dal Senato, si è dimesso due volte ha presentato le dimissioni, ma il Senato ha respinto le dimissioni di questo senatore. E va bene, succede anche questo nel dibattito sulla riforma del Senato. Andiamo a leggere i giornali, dai. Questo lunedì 21 settembre, i titoli, il Sole 24 Ore apre su più tasse per un'impresa su due. Nella manifattura record di aumenti, l'analisi del Sole 24 Ore sui dati Infocamera, che evidenzia una crescita del tax rate nel triennio 2012-2014. Invece Tsipras, che vince politicamente in Grecia nonostante l'alta non affluenza alle urne, il 45% dei greci non ha votato. Vittoria di Tsipras, ma vota soltanto metà della Grecia, così titola il Corriere della Sera, che mette insieme le due notizie greche. Repubblica, il riscatto di Tsipras, la Grecia è con lui, noi duri a morire, dice Tsipras. La Stampa, Tsipras rivince, farò un governo con i nazionalisti. L'Unità, Tsipras di lotta e di governo. Per il Messaggero, bis di Tsipras, rivince e governa. Mentre Tsipras uccide la sinistra è il titolo del Fatto Quotidiano. Il Giornale, il metodo Renzi, non pagare. Il Premier non salda i debiti, non onora gli impegni con lavoratori, polizia e pensionati. Questo è il titolo accusa di prima pagina del Giornale. Voglio partire però da una cifra, la cifra dell'evasione fiscale. Visto che lunedì vi voglio rendere allegri, sappiate che in Italia, secondo una stima ultima, racconta Enrico Marro, la stima è di oltre 91 miliardi sottratti all'erario. E questo, erano 100 miliardi, 120 secondo altre stime, bene dunque, no?

con turisti da tutto il mondo in fila. C'è anche un'intervista alla leader CISL Furlan, intervistata al Giorno, dice: è uno scandalo, è stato increscioso vedere migliaia di persone in attesa, ma alla base c'è un disagio profondo nel mondo del lavoro a causa della mancanza di programmazione e progettualità. La CISL comunque non farà lo sciopero, come invece ha già annunciato la CGIL. Questa Anna Maria Furlan, intervistata dal Giorno. Vabbè, che cosa c'è da dire? C'è ancora poco tempo? C'è spazio per un articolo? Vi segnalo la segnalazione, solo perché non riesco a leggerlo, di Benedetta Tobagi. Benedetta Tobagi che scrive su Repubblica, due pagine, va a fare un viaggio nella scuola di Brescia dove sono tutti stranieri. Mi sembra un racconto molto bello, molto anche edulcorato, viva il multiculturalismo. Nella scuola che sfida la Lega, tutti i bambini del mondo, viene raccontato solo con gli aspetti positivi. Bah, a me sembra che una scuola, una classe con tutti stranieri, dove ognuno parla la sua lingua, una sorta di Babele delle elementari, l'insegnamento ne va abbastanza, o no? Va bene, ma siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, una pagina contro la fretta, sul Fatto Quotidiano, a pagina 17, l'elogio necessario della pazienza in fila alla cassa. Abbiate pazienza, cari italiani, anche se ci sono code, anche se ci sono file, anche se è lunedì, pazienza, la pazienza. Ma chi se ne frega? Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan. Ciao Milan, che te portino via fuoco. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, fai tutto tu. Sono le 8:20, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, sì, parleremo anche del Senato, state tranquilli. Perché d'altronde al Corriere della Sera raccontano che c'è la resa nei conti nel PD. Quant'è la 200ª volta che ho sentito questa frase? Una sorta di Armageddon. Il PD va alla conta. E parliamo anche di questo, stasera c'è la direzione del PD, Ne parlerò con i miei ospiti. Voglio però partire, secondo me, io ho la mia teoria. Questa cosa non interessa mediamente a quasi nessuno. A meno delle persone che frequento io, non frequento dei buzzurri, dei cavernicoli, persone che fanno lavori che normali, che sono della media società, diciamo così, no? Ecco, della riforma del Senato nessuno mi parla, ma proprio nessuno, però sbaglierò io magari. Invece mi ha colpito molto e mi colpiscono gli strascichi delle polemiche per la chiusura del Colosseo. L'avete vista quella immagine, no? Con tutti i turisti, perché per un'assemblea sindacale di 3 ore il Colosseo è rimasto chiuso temporaneamente. Ecco, mi ha colpito perché anch'io quando l'ho visto ho detto: ma come? Ma trattiamo i turisti così? Ma siamo proprio un paese da terzo mondo se non riusciamo a valorizzare il nostro patrimonio culturale così. Poi però ascolti questi sindacalisti e dicono: ma non ci danno da mesi, non ci pagano gli straordinari. Ragazzi, ma vai tu a lavorare se non ti pagano gli straordinari. Allora mi sono rivisto un po' nelle mie stesse posizioni a pensare che un paese che tratta le persone che lavorano in un settore così cruciale senza pagare gli straordinari, forse quello è il problema principale. O il problema principale è quello che siamo dovuti ricorrere a un decreto d'urgenza, il decreto legge detto appunto DL Colosseo. Ma voglio dire, quando i buoi sono scappati, questo è il paese in cui si interviene sempre quando i buoi sono fuggiti e vanno per i prati, no? Interveniamo col decreto d'urgenza o no? Tanto vorrei sapere da Claudio Velardi se il Colosseo oggi riapre. Ce la fai questa cronaca in diretta? Quello te lo vedo tra un po', perché io abito vicino, quindi infatti, di casa, infatti. Ti telefonerò, te lo dirò. Infatti, è tutto aperto, tutto a posto, tutto. C'è il decreto d'urgenza, ma dai, vabbè. Comunque Claudio Velardi è con noi, insieme a Alessandro Robecchi. Buongiorno anche Robecchi. Eccoci, buongiorno qua. Milan, buongiorno a tutti. La capolista Alessandro Robecchi è interista, quindi sentite che è pimpante, allegro, ma mi sa che anche Velardi, Velardi tiene al Napoli. Sono romanista, sono romanista. Ah, sei romanista, non napoletano. Non lo posso, lo devo dire sottovoce perché i miei concittadini altrimenti. Allora, Claudio Velardi, ci voleva un bel decreto d'urgenza per... Sì, ma mi sa però, Alessandro, che tu devi anche rivedere la tua revisione. Sì, perché rivedo. Il problema vediamo, non è scioperare, vediamo. Non è scioperare perché i tuoi diritti non vengono attuati. Sì. Il punto è che non si possono fare assemblee durante le ore di lavoro, mm-hmm, perché quella è la forma più odiosa e anche stupida di protesta, perché tu fuori dai cancelli c'hai la gente che ha fatto viaggi e fa file per vedere questo bene straordinario, sì, che è il Colosseo, e tu, e tu dici no, questo bene è mio, non è vostro, quindi adesso mi faccio l'assemblea, discuto e poi te lo apro quando voglio. Questo è brutto, questo è brutto. Infatti, ma, allora tu la, guarda, la pensi come una cosa? È un fatto sbagliato sul piano comunicativo, perché se tu vuoi convincere la gente a stare con te e che il ministero fa male perché non ti paga, perché agli straordinari, inventati altre proteste. Ma in realtà, il metodo comunicativo in Italia in genere è quello che chi fa più casino vince. Però Claudio Velardi, la pensi come Ignazio Marino? Non so se questo ti faccia molto piacere o no, ma Ignazio Marino può capitare una volta, può capitare una volta nel corso di una vita, Può capitare. Ignazio Marino, sentilo qua. Il fatto che sia chiuso e che una persona che arriva da Sydney o da New York e aveva solo quel giorno per poter vedere un monumento millenario, beh, è uno schiaffo in faccia alle persone ed è uno sfregio per il nostro paese. Ignazio Marino, così. Caro Robecchi, mamma mia, quante stupidaggini. Addirittura, perché? Sì, un po' sì, perché allora le assemblee sindacali possiamo farle il 30 febbraio. No? Però di notte. Allora, il problema è questo. Andrò veloce per punti, ma molto veloce. Punto primo, l'anno scorso, il primo maggio, io ricordo perfettamente che i lavoratori del Colosseo non volevano lavorare di primo maggio. È vero. Si alzò un fuoco di fila renzista e migliorista e modernista, di cui forse Velardi fece parte, non lo so, che disse: ah, che scandalo, e lasciamo i turisti il primo maggio senza Colosseo. Allora i lavoratori dissero: vabbè, lavoriamo il primo maggio, ovviamente festivo, straordinario, eccetera, eccetera. Dopodiché, per un anno, quel primo maggio non gliel'hanno pagato. Quindi questo punto primo, come dire, mettiamo un mattoncino lì, un paletto, no, nella discussione, e va bene. Quindi io non so se Rondolino, cioè se Velardi lavora gratis o io no, per esempio, cioè se a me mi dicono vieni a lavorare domenica, io dico va bene, poi me la pagate. Sì, ecco, sì. Infatti è quello che mi ha fatto un po' rivedere la mia posizione iniziale punto di rabbia. Punto secondo. Questo famoso blitz che ha lasciato i turisti fuori, eccetera, eccetera, non è dovuto, la fila dei turisti non è dovuta all'assemblea, la fila dei turisti è dovuta al fatto che la sovrintendenza e quindi il ministero sapevano da giorni che ci sarebbe stata quell'assemblea, che era un'assemblea proclamata secondo le regole del garante, che ha confermato, che ha detto l'autorità sugli scioperi, ha detto sì, è tutto regolare, e questa cosa non è stata comunicata. Quando io, come dice il sindaco Marino, vado io a Sydney e magari ho un giorno solo per vedere l'Opera House, sai cosa faccio? Nell'albergo oppure sul mio tablet vado a vedere il sito dell'Opera House, dove c'è scritto gli orari, i prezzi, e se per caso, come mi è capitato a Parigi o a Londra per esempio, ma persino negli Stati Uniti, se per caso quel giorno lì c'è qualche problema. Ma il dato di fatto però che ci siamo, il dato di fatto è che ci facciamo male come paese, no? Questo no, il risultato visto dall'esterno, visto da uno di Sydney che queste cose non le sa e non ci ascolta. Visto da uno di Sydney, probabilmente a Sydney pagano gli straordinari e quindi non hanno questo problema. Però alla Torre Eiffel che è stata chiusa o al Louvre che è stato chiuso, sul sito del Louvre c'era scritto chiuso per sciopero, non venite. In quello del Colosseo non c'era scritto, e questo non è colpa di quelli che hanno fatto l'assemblea, questo è colpa delle loro controparti, no? Punto, ecco. Un altro punto, diciamo così, dirimente, è molto semplice, e cioè: fa male alla cultura italiana l'assemblea al Colosseo, oppure fa male alla cultura italiana il fatto che tutti gli enti culturali italiani, penso alla Biblioteca di Firenze che è stato un caso recente, siano sotto organico, oppure dipende dal fatto che chiaro, paese, arrivare a fare tra l'altro un decreto legge Colosseo, allora procedo per punti, sì, procede per punti. Prima Velardi, prima dei punti, però ti faccio sentire la Camusso, perché almeno devo dire una cosa, scusate, aspetta, dai, la dici tra un attimo, sentite la Camusso, che poi Velardi voglio sentire i suoi punti. Ma guarda che stiamo diventando uno strano paese in cui l'assemblea sindacale è diventata una cosa che non è possibile fare. Eccolo qua, Velardi, uno che affossa l'assemblea sindacale. Punto uno, sull'ultimo punto che dice Robecchi a proposito dei beni culturali, io ricordo sempre che nel museo di Caltanissetta, che incassa 1000 euro all'anno, ci sono 34 dipendenti. Ma sì, giusto, fine. Quindi non ne parliamo più. Questo è il primo punto. Andiamo agli altri punti, ed è così un po' dappertutto. Secondo punto, se tu vivi in un paese male organizzato, per colpa di tutti quanti, del ministero, dei governanti e di chi vuoi tu, che cosa fai tu lavoratore, tu cittadino? Dai una mano a peggiorare l'immagine del tuo paese come hanno fatto i lavoratori del Colosseo? No, ti comporti diversamente. Ho capito, ma questi non prendevano lo stipendio da mesi, però. Ho capito, cioè, lo straordinario. In maniera intelligente e diversa. Siete in grado di farlo? Avete un po' di fantasia? Sapete organizzare uno sciopero con le modalità giuste, conquistando il consenso della gente? Perché il problema dello sciopero non è farlo, quelli sono bravi tutti a farlo, tu devi conquistare il consenso della gente, altrimenti va a finire come con gli scioperi bianchi della maledetta metro di Roma, dove la gente è inferocita e vorrebbe periodicamente picchiare i lavoratori che protestano in questo modo, e giustamente, bisogna pensare alla gente. Quello devono pensare i lavoratori, adesso, non al governo. Al picchiarli. Governo ci pensano Becchi, ci pensano i giornalisti, ci pensano quelli che fanno polemica. Cioè, ma alla fine pagano i lavoratori. Cioè dovrebbero picchiarli. Capito, ma hai detto che dovrebbero. Dice, vorrebbero picchiare i lavoratori, giustamente, dice Velardi. Che vorrebbero picchiare. Ma come giustamente? Provate a prenderla voi la metro A di Roma, cari miei ragazzi. Ecco. Prendetela voi la mattina la metro A di Roma. Noi stiamo a Milano, okay, fortunatamente stiamo a Milano. Stiamo a Milano, siamo salvi. Noi stiamo a Milano. Robecchi, dici. Io apprezzo il tentativo benaltrista di dire: ah, ecco, mio cugino c'ha 26 guardiani al museo di Caltanissetta, però e anche il populismo di ecco brutto la metro A, lì non era questa questione, era proprio un'altra questione. Qui è un paese che tutti i giorni ci fa il pippone sulla grande potenza culturale, sì, e investe nella sua cultura l'1% del PIL e non paga gli straordinari a quelli che lavorano di domenica. Di cosa stiamo parlando? Ma questo, infatti, guarda che è quello che ho detto all'inizio, che il fatto che il problema è che trattiamo così la cultura, il nostro straordinario patrimonio culturale, chi ci lavora eccetera, e poi succedono queste cose periodicamente, perché ecco, a Pompei non succede spesso che ci sono le assemblee, la grande biblioteca di Firenze, che è un posto dove tutti gli studiosi del mondo vanno, è sotto organico del 50%. Quando hanno fatto una protesta per dirlo, il MIBACT, cioè il ministero dei beni culturali, cioè il signor Franceschini, ha dimezzato ulteriormente gli organici. Di che cosa stiamo parlando? Chi è che penalizza la cultura in questo paese? Il fatto che non entrano 50 lavoratori del Colosseo che chiedono. Non entrano soldi, paga, con la cultura non si mangia. Il fatto che non entrano soldi perché tutto è organizzato male, compreso il fatto che i sindacati non danno una mano e i lavoratori organizzati nei sindacati non danno una mano a fare in modo che nei musei entrino più soldi. Ma Velardi, questo è il punto. Non dobbiamo sempre prendercela con gli altri. Quello che non piace a Velardi è che il vedere che c'ho, ho un diritto sindacale, magari da rivendicare, ho dei soldi che mi spettano, certamente, che faccio? Blocco, cioè creo un danno al turista che arriva in fila. Scusami, a parte il fatto che non era uno sciopero, punto primo. Punto secondo. Il risultato è quello. Allora, sei andato a vedere quante volte dal 1 maggio del 2014 e quindi in 16, 17 mesi, 18 mesi, un anno e mezzo, quante volte i lavoratori del Colosseo hanno chiesto i loro soldi senza far casino. No, è vero, è vero. È come ha detto, in Italia o fai casino o nessuno ti ascolta. Sì, o fai casino anche, e nessuno ti ascolta. Però è anche vero che se glieli avessero dati dopo due mesi, dopo tre mesi, e sarebbe stata comunque un'ingiustizia, sì, ieri non ci sarebbe stata questa cosa qua. Siccome tu chiedi i tuoi diritti per un anno e mezzo e nessuno ti caga, lo dico in francese, allora dopo un anno e mezzo ti salta il tappo, lo dico di nuovo in francese, sì, e fai un'assemblea sindacale. Ecco. Punto. Attenzione, dico un'altra cosa, visto che alcuni schiotti del governo sono saltati su a dire al Louvre non fanno mai sciopero. Poveretti, non hanno Google forse a casa, li aiuto io. Il Louvre ha fatto tre giorni consecutivi di sciopero perché le guardie scioperavano. La National Gallery da mesi a Londra apre a singhiozzo perché c'è una vertenza sindacale in corso, e il governo francese e il governo inglese non si sono affrettati a fare un decreto antisindacale. Vabbè, ma quello noi viviamo sempre nell'emergenza, c'è da vent'anni che arrivano i migranti e dobbiamo fare le cose d'emergenza, ci sono questi problemi della cultura e facciamo il decreto Colosseo. Potremmo essere tutti quanti d'accordo se fossimo persone, come dire. Vediamo. Il punto è la comunicazione. Alla come fine, il risultato qual è? È che queste cose si comunicano male e i sindacati sono più impopolari dei giornalisti e dei magistrati e dei politici, è chiaro? Questo è il punto. Allora, la classifica com'è però? La classifica com'è, caro Velardi? Penso che i sindacalisti sono più odiati dei giornalisti, al dei secondo magistrati posto, dei politici in linea di massima. Non lo so, la facciamo per bene, la facciamo un'indagine più accurata. Allora, santi Dio, comunicate meglio le cose prima di indire una protesta, una manifestazione. Cercate il consenso dei cittadini, ma ci vuole tanto, ci vuole un po' di intelligenza, un po' di insomma fantasia. Velardi di comunicazione se ne intende, però dopo la pubblicità dobbiamo parlare del Senato, avremo anche, pensate, un senatore che vuole dimettersi dal Senato ma non ce la fa perché gli rifiutano le dimissioni. Però se volete, cari ascoltatori, sindacalisti, giornalisti, magistrati, politici, la prendo al volo questa cosa, scriveteci al 349-238-6666 la vostra classifica delle persone che non sopportate di più come categorie: sindacalisti, giornalisti, magistrati e politici. Dai, dopo la pubblicità. 8:39 minuti. Allora, sono arrivati tantissimi messaggi, lo sapevo, su questo tema che appassiona e divide. Il Colosseo, gli scioperi, o meglio l'assemblea sindacale, c'è chi ci scrive: potevano fare un volantinaggio all'ingresso con spiegato in tutte le lingue le loro difficoltà. Max da Treviso, è qui la comunicazione che ci diceva Velardi. Oppure: io non prendo stipendio da 3 anni, sono un piccolo imprenditore che faccio sciopero. Capisco l'amarezza. Chi se la prende col Ministero dei Beni Culturali? Andrea da Bologna ci dice: è gestito da culturisti, questa è la verità. Oppure chi dice vanno licenziati, chi dice fa dimezzare l'organico, insomma ci si divide, chi dice che ha ragione uno, chi dice che ha ragione l'altro. Bene, siamo con Alessandro Robecchi e Claudio Velardi, ci ha chiamato anche Anna Rita da Roma. Anna Rita, buongiorno. Che vuole dire su questo tema? Che sono un po' scandalizzata da tutto questo clamore. Cioè? Perché adesso queste persone stanno rivendicando dei loro diritti, no? Non vengono pagati, e questo è forse l'unico modo per farsi sentire, pagare. Cioè mettere in coda della gente di New York. Però io sono scandalizzata quando nessuno di noi, né l'opinione pubblica, né i giornali, hanno fatto nulla quando Renzi ha chiuso Ponte Vecchio. Ha chiuso lasciando Ponte Vecchio, tutti, sì. Certo, per i ferraristi. Una volta per un evento. Beh, ne avevamo parlato con Velardi, che dice: bene, ha guadagnato anche dei soldi con... No, non è così, perché no. Allora la stessa indignazione doveva suscitare per quei poveri turisti rimasti senza poter vedere Ponte Vecchio, magari da Melbourne era l'unico giorno in cui loro potevano, e invece non l'hanno vista. Beh, effettivamente l'osservazione la ringrazio, Anna Rita da Roma. Però qua Velardi, adesso non proseguiamo su questo argomento perché dobbiamo parlare del Senato, perché è un tema molto dibattuto. È chiaro che è un'osservazione politica, sì, cioè una militante antirenziana che ricorda è il nostro pubblico, c'è tutto nel nostro pubblico. Allora, quindi io lo difenderò sempre. Claudio Velardi, stasera c'è la resa dei conti, siamo pronti? Oddio, la centesima resa dei conti. Siamo pronti. No. Ma io penso che, come sempre, non ci sarà nessuna resa dei conti, nel senso che, come in tante altre direzioni di partito, Renzi andrà là, dirà la sua, la minoranza un po' si acquatterà, qualcuno non ci sarà, perché poi tutti questi signori della minoranza, che giustamente la Boschi ha invitato ad andare a prendere la pizza insieme, sì, prima sbraitano, ne dicono di tutti i colori, poi non si presentano quando non si tratta presenta di discutere, questo, o non parlano. A un certo punto Poso D'Alema ha detto: sì, no, ma io non parlo 3 minuti, voglio parlare, non so, 20 minuti, come Fidel, sì, Castro, 3-4 ore. No, beh, adesso quindi... come Fidel Castro, non lo so. Come Fidel di una volta, diciamo. Quindi non lo so se sarà decisiva, probabilmente no. Tratteranno su questo punto, che è un punto assai discutibile, perché se tu fai la Camera rappresentativa delle regioni, per quale motivo li devi eleggere? Ma poi che discussione. Beh, Bersani dice perché vuole che gli italiani scelgano almeno il Senato, no? Scelgano almeno le persone che vogliono mandare lì. Già il Senato non fa niente. Diventa la Camera delle regioni e quindi tu li eleggi dai quelli delle regioni. Poi dicono: ma quelli delle regioni sono cattivi, ma perché invece i nipoti e Razzi sono buoni e quelli li abbiamo eletti e infatti la classifica un ascoltatore ci scrive che i politici italiani sono i più odiati, poi non so perché mette avvocati 2, tassisti 3 e quarto posto i milanisti, cioè non è uscito un po' dal seminato, come si suol dire in questa classifica. Comunque Robecchi, tu l'hai capita la questione vera, sì, per cui litigano, sì, lì. Io l'ho capito. L'hai capito. Adesso aspetta un attimo, io guardo alle questioni interne del PD come se avessi uno zio a Toronto che non credo, ma cioè, come dire, me ne frega qualsiasi. Gli mandi una mail, gli mandi, sì, una teoricamente mail. È un bel argomento di discussione, però come dire, guardo al PD veramente come un vecchio zio con cui una volta ho avuto a che fare 150 anni fa, ma adesso vabbè, per affetto ti interessa, no, come va? Sta scemando anche l'affetto, diciamo. Comunque, questa è la mia posizione personale. Il nodo della questione è molto semplice ed è: i senatori li eleggiamo oppure no? Tu, caro Milan, sì, amico mio, che hai combattuto in trincea, in prima fila, la battaglia delle province, sì, tu avrai visto cos'è successo, che si sono abolite le province, che rimangono peraltro lì. I consiglieri provinciali non li abbiamo più eletti noi, cioè io non sono più andato a mettere una mia crocetta su una, sì, scheda, ma sono stati nominati tra i sindaci. Con un giro di piaceri, sottocorrenti, correnti, se tu mi voti questa leggina io poi ti metto alla provincia, ah però ci sarebbe anche la corrente di Zipippo, ah va bene allora mettiamo uno di Zipippo. Ecco, il Senato diventerà così. Cioè passerà da una cosa, ma che perché con la legge elettorale attuale li votiamo i politici, no? Sono scelti dai, sì, partiti, beh, comunque. No, li votiamo nominati, ma insomma allora, ci danno un range tra cui scegliere, diciamo così, mentre invece lì sarà: caro amico, mi voti questa leggina in Campania che dopo io calzeggio il tuo nome Senato per la nomina al Senato? Insomma, parliamoci chiaro, a questo punto andava abolito. Ma meglio abolito. No, addirittura, visto che questa stupidaggine di superare il bicameralismo perfetto parte dall'esigenza di risparmiare e di tagliare i costi della politica, virgola, che aumenteranno, virgola, io ti dico che invece bisognava dimezzare sia i deputati alla Camera, sì, e sia i senatori, perché con il bicameralismo perfetto che adesso sembra che rallenti il paese, sì, in questo paese sono state fatte grandi riforme, sì, il servizio sanitario nazionale, lo statuto dei lavoratori. Quindi tu dici dimezzare poteva essere un buon compromesso, Camera e Senato, sì, però io non, esatto, so, Velardi, abolirlo, adesso tutti dicono che andava meglio abolirlo questo Senato. Ma questo è tipico di questo paese, no? Che quando quando non si fanno le riforme si dice si predica la rivoluzione, quando le riforme si fanno si dice sempre più ma non va bene, ma appunto si rifugia sempre nel benaltrismo, ci vorrebbe ben altro. Sì. Intanto prendiamoci questa riforma che ridimensiona il Senato, che abolisce il bicameralismo perfetto. Non so se lo zio che sta a Toronto di Robecchi, sì, la materia la tratta, questa del bicameralismo perfetto, ma è una tragedia, non esiste in nessun paese civile, sì, il cosiddetto bicameralismo, no, perfetto. Lo zio di Toronto avrà altro a cui pensare. Dove ci sono, sì, dove ci sono, che fa la stessa cosa, che fa la stessa, non fanno la stessa, oh, certo, cosa, le due case invece molto quelle che fanno la stessa cosa, no, ma è, questo sì è un disastro. Però io, dopo il traffico, voglio presentarvi un ospite detto che arrivano le classifiche. Lorenzo, per esempio, mette magistrati e giornalisti tra i più odiati, in primo in classifica. Sindacalisti e politici arrivano un po' dopo. Questo è quello che ci ha detto Velardi, ci ha tirato fuori queste quattro categorie. Stiamo facendo una classifica dei più odiati. Non so chi ci mette, perché soprattutto i dentisti e i veterinari tra i più odiati, evidentemente ha qualche problema di conti da pagare. Comunque, dopo il traffico avremo ospite il senatore Vacciano, che vuole dimettersi dal Senato, pensate, vuole, lui vuole e non lo fanno dimettere, è incredibile. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli, scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... Eccoci qua, 8:49 minuti, c'è insieme a Alessandro Robecchi, insieme a Claudio Velardi, e ci ha raggiunto, lo saluto, il senatore Giuseppe Vacciano, buongiorno, gruppo misto, senatore, eccoci qua. Ci sente? No. E allora ripristiniamo il senatore. Pronto? Niente, riproviamo a richiamarlo. Sì, posso dire una cosa intanto? Sì, certo, come no. Il senatore, vai Alessandro, che è questa. Sì. Io trovo molto divertente il discorso di Velardi quando dice adesso che si fanno le riforme la gente si lamenta. Ma vede Velardi, non è che le riforme, la parola riforma... No, ma non è vero che la gente si lamenta, eh. La gente, no, la gente non si interessa, la gente si lamenta. No, scusi, mi lasci parlare, però dipende molto dalle riforme, perché se io domani faccio una riforma che dice aboliamo le cinture di sicurezza o aboliamo gli ospedali, è una riforma, ma non è buona in sé solo perché è una riforma. Ci sono riforme buone e ci sono riforme cattive. Questa qui del Senato è una riforma cattiva. Per Velardi è buona, insomma, poi sono discussioni. Però ci ha raggiunto il senatore. No, no, ma è chiaro, il senatore Vacciano. È buona perché è una riforma. Ci sente, senatore, buongiorno. Sì, mi sentivo anche prima. No, noi abbiamo problemi, non la sentivamo. Ex Movimento 5 Stelle, ora gruppo misto. Lei due volte ha presentato le dimissioni, ma le dimissioni vanno votate e approvate dall'Aula. E due volte che è successo? E due volte hanno deciso che dovevo tenergli ancora compagnia per un po'. Comunque io non ho desistito e l'ho presentata anche la terza volta. Terza volta? Ma chi è che rema contro? Scusi, lei vuole, intanto no, perché lei si vuole dimettere? Ma guardi, io credo di averlo spiegato abbondantemente. Io ritengo che al netto di tutte le tutele garantite dalla Costituzione il mio posto spetti a un portavoce del Movimento 5 Stelle. Cosa che io attualmente non sono, perché non mi sento più facente parte dell'organizzazione del Movimento 5 Stelle. Quindi lei invece che uscire dal Movimento e rimanere lì al Senato dice è giusto che io lasci il posto a uno che mi subentrerà, dovrebbero di corsa, e invece no, qualcuno, chi è che rema contro allora? Quelli della maggioranza? Secondo guardi, ci sono stati soltanto 48 voti a favore delle mie dimissioni, quindi un po' tutti. Adesso io speravo sinceramente che nella seconda tornata i numeri mi fossero un po' più favorevoli, però evidentemente o non sono stato abbastanza convincente o non mi hanno ascoltato con abbastanza attenzione. Ma è incredibile questa cosa, ma perché secondo lei, cioè cosa le dicono? Perché lei li incontrerà lì a dire ma ascolta, ma tu hai votato contro le mie dimissioni? Guardi, sinceramente a parole tutti quelli che ho incontrato e cui ho spiegato qual è la mia posizione, che il mio non è un gesto di protesta, che non è una cosa velleitaria, ma ho la reale intenzione insomma di lasciare il posto a un altro portavoce del Movimento, sembrava che tutti dovessero votare a favore. Poi quello che è successo insomma è ufficiale. Sinceramente non so bene cosa gli abbia fatto cambiare idea all'ultimo momento a tante persone. Forse a qualcuno interessa il fatto che lei esce del gruppo misto e subentrerebbe uno del Movimento 5 Stelle, quindi forse qualcuno che non vuole uno in più del Movimento 5 Stelle al Senato. Ma sinceramente lì in Senato, come del resto in tutto il Parlamento, contano i voti, e se uno va a fare la verifica dei voti, io non ho praticamente mai votato in dissenso da quello che era il mio ex gruppo, salvo forse questioni diciamo tecniche che riguardavano i lavori della mia commissione, su cui ho un... Quindi lei non porterebbe via un voto, non porterebbe via un voto alla maggioranza, ecco perché... Cioè. Sostanzialmente potrebbero avere più possibilità con il nuovo entrato che con me, quindi... Ah, dice. Ma lei perché va? È rimasto deluso? È la prima volta che entrava in politica, entrava al Senato e se ne va poco prima che il Senato non conti più, poi tra l'altro. Cioè... Sì, ma questo certo, se deve diventare un parcheggio poi subentra anche un altro tipo di ragionamento, ma ripeto, io sono entrato lì con il Movimento 5 Stelle perché con il Movimento 5 Stelle avevo fatto un percorso diciamo di vita che era durato 7 anni. Ho visto poi in Parlamento cambiare determinate cose nella sua fase, nella sua organizzazione, nella sua gestione, che io non condivido affatto, che secondo me sono distanti dall'idea iniziale del Movimento, quindi per me è un'altra cosa. Misto, è passata al misto, passato però al misto perché obbligatoriamente, cioè, certo. Io ho dato come, io ho dato la disponibilità al gruppo di permanere e lavorare con il gruppo fino al momento del accoglimento delle dimissioni. Il gruppo ha deciso diversamente, io ripeto, avevo dato disponibilità per qualsiasi tipo di soluzione, eh? Quindi noi per forza di cose siamo piazzati nel misto. Senta, ma Vacciano, c'è un clima di smobilitazione, si racconta in alcuni giornali di senatori disperati, oddio, ci portano via la poltrona, non sappiamo, guardi, c'è questo clima o no? Adesso smobilitazione, io credo che ognuno faccia con coscienza il proprio lavoro, almeno la maggior parte di noi. Certamente non c'è un grande entusiasmo, nel senso che se uno si sente in un'istituzione che viene vissuta quasi un peso, non è che diciamo ci sia questa grande allegria, probabilmente non c'è più quel clima che c'era precedentemente, perché adesso smobilitazione per adesso ancora no, forse c'è ancora qualcuno che si illude che possa essere elettivo, come spererei anch'io, quindi ci siano 100 poltrone in più e magari se è elettivo 100 poltrone sono salve, 95 per la verità, 5 sono senatori a vita, però Velardi qualcuno ci spera ancora, 95 poltrone dai, forse questo. Beh, intanto onore al senatore che poi fa salire in classifica i politici, diciamo, in classifica di credibilità. Certo, infatti in una classifica appena arrivata sindacalisti tra i più odiati, poi politici, magistrati e giornalisti al quarto posto. No, io voglio dire una cosa, questa del rifiuto delle dimissioni è storica, una prassi del Parlamento che aveva all'inizio fin anche motivazioni nobili, stiamo parlando diciamo dei tempi, certo, evitare pressioni, dopodiché è diventata obiettivamente un sistema a protezione della casta che scatta quasi in automatico. Il caso del senatore non è l'unico, anche il povero senatore Nicola Rossi, un mio caro amico, una persona bellissima, ha tentato più volte e ci è riuscito a fatica, appenato, incredibile. E il suo e quello di Letta sono gli unici forse due esempi, diciamo, di persone che hanno dichiarato mi dimetto e poi effettivamente ci sono riusciti. Poi ce ne sono altri, tipo per esempio il mitico senatore Walter Tocci della minoranza del PD, che fece lacrimare mezza sinistra italiana perché fece un discorso meraviglioso, basta me ne vado, questo senato sta ancora, non è che fa come il senatore Vacciano che cerca disperatamente di andare, sta sempre lì, sta sempre lì. Vabbè, ma io mi devo fermare perché intanto vi ringrazio senatore Vacciano, così come ringrazio Claudio Velardi e Alessandro Robecchi. Noi andiamo in onda fino alle 9:30, quindi non abbandonateci, a tra poco. Buongiorno a voi tutti, un saluto da Maurizio Melis. Anche se a tutt'oggi manca l'ufficialità, è pressoché certo che i bonus fiscali per le ristrutturazioni e le riqualificazioni energetiche nel settore delle edilizie, famosi 50-65%, verranno confermati. D'altronde il dispositivo funziona e si finanzia da solo. Meno chiaro è se ci saranno cambiamenti e di che tipo, e questo è un male, visto che l'incertezza non aiuta a programmare soprattutto gli interventi più significativi, cioè quelli che hanno il maggior impatto sia economico che energetico, ma che richiedono più tempo per essere progettati ed eseguiti. Da tempo d'altronde si parla di alcune correzioni al meccanismo, per esempio di un tetto unitario per alcuni interventi, di accorciare il periodo di restituzione del credito da parte del fisco e soprattutto di stabilizzare le detrazioni, magari con un decremento progressivo che continui a spingere i consumatori a non rimandare l'investimento per non perdere le condizioni migliori. Ne parliamo stasera a Smart City qui su Radio 24 alle 20:50. Buona giornata. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. Questa settimana si chiude la fase di attuazione della delega per la riforma fiscale. Entro pochi giorni il Consiglio dei Ministri approverà l'ultimo pacchetto di 5 decreti, tra i quali quello sul riordino delle sanzioni tributarie e quelle sulle nuove regole per chi ha debiti con Equitalia. Il bilancio della delega non è proprio entusiasmante. Il Sole 24 Ore ha calcolato che solo poco più della metà metà degli obiettivi della delega ha trovato attuazione nei decreti del governo. Al palo sono rimasti capitoli molto importanti, cito tra i tanti la riforma del catasto che per ora non si farà. Certo, non è solo una questione di numeri e l'efficacia della delega fiscale andrà misurata in relazione alla sua capacità di migliorare il sistema, di renderlo più efficiente, di renderlo più semplice. Sotto questo profilo, in effetti, qualche segnale positivo può essere colto. Eppure, ora che siamo alla fine, si ha ancor più la sensazione che moltissimo resta da fare, specie su un aspetto, ovvero quello della misura del prelievo fiscale. Questo era un obiettivo non previsto dalla delega, che però resta oggi più che mai il vero punto debole del nostro fisco. Le tasse sono troppo elevate sia per le persone sia per le imprese. C'è la promessa del governo di cominciare a invertire questa tendenza, lo si deve fare velocemente perché la piccola ripartenza dell'economia che vediamo in queste settimane ha bisogno di essere sostenuta e rafforzata anche grazie a un fisco meno pesante. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Mattino. Sono le 9-8 minuti, andremo avanti anche questa settimana, l'ultima fino alle 9.30. Allora, se uno guarda oggi i giornali, le cronache ancora raccontano ciò che purtroppo tutti i weekend, e non solo nel weekend, succede, le ennesime stragi sulle strade. Gli ingredienti sono i soliti, persone morte e spesso chi uccide alla guida aveva bevuto. In un caso addirittura come in questo weekend in provincia di Lecce, un automobilista ha travolto, ucciso due sedicenni scooter, e l'automobilista è stato trovato positivo all'alcol e anche alla droga. Ne parliamo partendo però partendo da un articolo del Sole del secolo XIX, che mi ha colpito molto. È uscito venerdì scorso, è una sorta di garbuglio della giustizia italiana, un po' complicato se volete anche da spiegare, ma cerchiamo di spiegarlo, lo facciamo grazie all'aiuto del procuratore aggiunto di Genova Franco Cozzi, che saluto. Buongiorno dottor Cozzi e grazie di essere con noi. Allora, intanto fissiamo una cosa che magari gli italiani non sanno, e cioè se uno viene pescato con una soglia tra 0,5-0,8 grammi per litro nel sangue, ovviamente, si subisce al momento solo una sanzione amministrativa, giusto? Tra 0,5 e 0,8 c'è solo una sanzione amministrativa, pecuniaria e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Perfetto, se invece si supera questi 0,8 si va nel penale. Si va nel penale con soglie diverse tra 0,8 e 1,5 e sopra 1,5. Sopra 1,5 addirittura c'è, se non sbaglio, l'ammenda 6.000 euro, arresto da 6 mesi a un anno, la sospensione della patente da 1 a 2 anni, insomma è la questione più grave. Allora, prego, dica. No, dicevo, con aggravanti ulteriori nel caso che la persona abbia provocato un incidente stradale o abbia guidato in ore notturne. Procuratore, la questione è questa. C'è stata una sentenza della Cassazione, raccontava questo articolo, in cui una persona, un guidatore, è stato pescato, pizzicato con sopra 0,8, quindi si va nel penale, ma è subentrata la legge che è stata approvata da poco sulla cosiddetta tenuità del fatto, per cui c'è la non punibilità per reati che non sono giudicati di grave danno sociale, di grave interesse sociale. È davvero possibile una cosa del genere? Sì, dunque il 2 aprile del 2015 è entrata in vigore il decreto legislativo sulla archiviazione o proscioglimento per speciale tenuità del fatto, che può riguardare, come ha riguardato nel caso della sentenza che citava lei, anche il caso della guida in stato di ebbrezza. Sopra gli 0,8 però, quindi poco sopra lo 0,8. Cioè, è un problema che ha posto questa legge, se posso continuare, sì. È quello dell'applicazione di una valutazione di particolare inoffensività che deve fare il giudice ai casi in cui l'offensività di un comportamento, come nel caso della guida in stato di ebbrezza, è legata a una valutazione di quantità, ad esempio, come citava lei prima, perché si supera una soglia di presenza di alcol nel sangue 0,5, 0,8, 0,8, 1,5. Mm. Cioè, la legge non precisa che cosa succede nei casi in cui il legislatore penale, la legge penale, ha già fatto una valutazione per cui ha detto fino a 0,8 c'è solo sanzione amministrativa, sì, sopra 0,8 c'è anche la sanzione penale. Per cui il giudice si trova di fronte al problema quando si è superato di poco lo 0,8, ma tutti gli altri elementi della condotta sono a favore di una valutazione di particolare inoffensività, perché ad esempio non c'era nessuna condotta anomala o di guida, oppure non c'è stato nessun danno, nessun tipo di pericolo per la circolazione. Si può applicare la tenuità del fatto. E la Cassazione ha ritenuto in un caso di sì. Però ha creato, secondo il secolo XIX, questo paradosso che lei ci spiegherà bene, e cioè che se tu vieni beccato tra 0,5 e 0,8 prendi la sanzione amministrativa, se vieni beccato oltre 0,8 con tutte le questioni che lei ci ha specificato, c'è il rischio di cavarsela, sì, perché è tenuità del fatto. Ma come? Cioè, uno che beve meno viene punito più di uno che beve di più, questo è il dato, sì, di fatto. Quindi, per chiarire ancora meglio agli ascoltatori il paradosso, può accadere appunto che una persona, magari due conducenti a distanza poco tempo, vengano sorpresi con l'etilometro, una che guida con 0,75 e l'altra con 0,80,5. Nel primo caso non viene interessato il giudice penale, viene segnalato il prefetto applicherà, e corre naturalmente tutte le altre condizioni di legittimità, applicherà la sanzione amministrativa fino a 2.000 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Nel secondo caso si va davanti al giudice penale, che normalmente in questi casi applica, se la persona non fruisce della sospensione condizionale, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, che ormai è applicata in massiccia misura a questi casi, oppure, come dice la Cassazione, potrà ritenere il fatto di speciale tenuità e non applicare nessuna sanzione. E questo va a casa senza niente, casa senza niente, perché la legge, che purtroppo, e qui non è un problema della giustizia italiana, è un problema della legge, che non ha previsto che in questi casi il giudice penale trasmetta gli atti al prefetto, no? Sì, che applichi almeno la sanzione amministrativa. Almeno quella. Questo problema è un grosso problema che è già stato affrontato anche, diciamo, dai commentatori, dai giuristi, perché si verifica non soltanto in questa situazione qua, ma in tutti i casi di reati dove c'è, diciamo, una quantità minima che occorre superare per commettere il reato. Ad esempio c'è nei casi di reati tributari, ad esempio lei sa che, o comunque lo diciamo, è reato l'omesso versamento di ritenute fino a 50.000 euro, da domani tra poco sarà fino a 150.000 euro. Mm. Ecco, se si supera di un euro, di 10 euro quella soglia, si può dire che c'è la speciale tenuità o non si può dire? Perché insomma, diciamo, sì, è un garbuglio, un inghippo giuridico, però, che però crea un paradosso clamoroso, soprattutto il paradosso, se mi permette, procuratore, è quello che se uno ha 0,81 e viene lasciato andare per la tenuità del fatto, almeno si dovrebbe dire, almeno si applichi la sanzione amministrativa, come se avesse bevuto tra 0,5 e 0,8, almeno quello. Ma infatti c'è soltanto questo problema particolarmente acuto adesso, e dovrà essere riesaminato secondo me dalla Cassazione questo aspetto, perché mentre nel caso che le facevo dell'altro esempio dei reati tributari la persona comunque ha una sanzione amministrativa, qui no, per cui effettivamente si rischia di avere un risultato abnorme. Per carità, io intanto, procuratore, la ringrazio perché ci ha dato uno spunto molto interessante che c'è sul secolo XIX, e la ringrazio davvero. Franco Cozzi, procuratore aggiunto di Genova. Per carità, il messaggio non deve essere, capisco che via sms qualcuno dice vabbè a questo punto conviene bere di più, no, non diciamo stupidate, però il paradosso della legge c'è e lo voglio sottoporre come un commento anche purtroppo di un racconto delle ennesime stragi a Giordano Biserni, che saluto, è presidente dell'Associazione Amici Polizia Stradale. Buongiorno Biserni e ben ritrovato. Giuseppe Cassaniti Mastroieni, che è presidente dell'Associazione Italiana Vittime della Strada. Signora, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Allora Biserni, vabbè, il paradosso questo lei lo conosceva? Sì, certo lo conoscevo. È di fatto c'è questo rischio di un'istigazione a bere di più. Vogliamo ricordare che però nel caso in cui poi un ubriaco provochi lesioni e uccida, non si può poi più applicare. Ma no, chiaro. Però sì, siamo veramente alla commedia ormai sui temi della sicurezza stradale. Voglio aggiornarla, lei parlava degli incidenti d'alcol, i due ragazzi di ieri. C'è anche un ragazzo 22enne ucciso nel bolognese ieri sera in bicicletta, travolto da un signore Mercedes, ubriaco un'altra volta. Questo ieri sera è avvenuto? Sì, questo lo stiamo mettendo nella nostra rassegna stampa in questo momento dell'ASAPS. Questo dimostra che veramente, cioè, l'impunità permette questo e altro. Conoscevamo questo ulteriore... come l'avete chiamato voi questo abuso? Garbuglio giuridico, garbuglio. Perché poi sì, voglio assolutamente dire, che va riparato, Milan, va assolutamente riparato, perché qui veramente la giungla è sempre più fitta. Sì, certo, non è il messaggio tradotto così, uno beve tanto e non gli succede niente, è sbagliato, però c'è il paradosso, paradossalmente la possibilità che uno che beva più di 0,8 e sia in una condizione, ovviamente non fa un incidente, non travolge nessuno, viene fermato, possa andarsene via con la tenuità del fatto, quindi non finisce tutto senza subire niente. Guardi, senza subire niente, né di penale né di amministrativo. Da 0,5-0,8 c'è anche la sospensione della patente da 3-6 mesi, appunto. Appunto. Immagini, cioè, che danno si fa a un signore conducente che è nella fascia della sanzione amministrativa prevista al 186 rispetto a quello che supera 0,8. Sì, quello che magari a 0,81 non prende niente di penale e anche la patente è tutto a posto, lascia, eccetera. Esatto. Allora, io vorrei, signora Giuseppa, lei è presidente dell'Associazione Italiana Vittime della Strada, ricordiamo sua figlia Valeria. Fu ucciso da un pirata della strada. Voi vi battete da anni a dire che cosa vorreste, perché noi ne abbiamo parlato tante volte e tante volte le istituzioni si impegnano, per esempio introduciamo il reato di omicidio stradale, introduciamo delle legislazioni più dure. Verificate e vedete che c'è davvero questa volontà da parte del legislatore a farlo? Ma da parte del legislatore non mi sembra, da parte, saluto Giordano Biserni, certo delle forze di polizia, loro fanno il loro dovere, però se si trovano poi con leggi che non li sostengono, insomma, cosa si può fare? Non mi sembra, noi abbiamo sempre detto che è necessario che ci sia un input forte da parte del centro, nel senso da parte del governo, che questo problema degli incidenti stradali deve essere affrontato. Lei ha sentito, tanto per dire, il Presidente del Consiglio dire che il problema deve essere veramente affrontato, ha parlato del fatto che ci deve essere l'omicidio stradale per la guida in stato di ebbrezza sotto l'effetto di sostanze, ma ancora questo discorso sta camminando. Per la verità si è sentito l'impegno, so che se non sbaglio Renzi andò anche a trovare il papà di un ragazzo che è stato il papà, e questo papà è stato il nostro ospite, la promessa: faremo l'omicidio stradale, il reato di omicidio stradale. Sì, ma ancora, cioè, lo si poteva fare, tanto per dire, sì, ma ancora chiaro, questa cosa non è venuta fuori. Tra l'altro, quello che noi diciamo, quello che noi vorremmo che si facesse, che ci fosse un approccio corretto di fronte a questo grave problema, che non è legato soltanto alla guida in stato di ebbrezza sotto l'effetto di sostanze, ma ai comportamenti di trasgressione delle norme. Secondo me deve cambiare l'approccio al problema, perché per esempio adesso si dice, si legge, insomma, che c'è stato un incremento degli incidenti rispetto all'anno precedente, e si dice che tra le cause principali degli incidenti ci sono le distrazioni alla guida legate all'uso del cellulare. Sì, questo fatto, che è un fatto diffuso e reiterato, non viene preso in considerazione. Quindi l'approccio deve essere questo, che bisogna contrastare la trasgressione delle norme. Sì, io dico che l'unico modo per contrastare è pattuglie di polizia che fanno le multe. Non ci sono forme edulcorate per cercare di far capire un divieto agli italiani da rispettare. Ci sono solo forme che sono dure, cioè colpire nel portafogli Biserni, sbaglio. Nel portafogli, non ci sono altri metodi. Colpire nel portafogli e andare anche oltre. Lei sa che l'ASAP ha addirittura proposto in maniera abbastanza provocatoria il sequestro del cellulare, visto che sta dilagando in modo incredibile l'utilizzo del cellulare alla guida in fonia, ma anche in messaggistica. Che basta un auricolare? Basta un auricolare, costerà 3. Perché? Già hanno vietato pure quello. Beh, perché, perché distrae con l'audio? Tanto da noi non servirebbe, Milan, sa, perché da noi l'auricolare alla guida non lo usa quasi più nessuno. Pochissimi casi. Voglio dire anche questo, Milan. A parte la presenza, ti si è delegato troppo all'elettronica, Mina, cioè troppo autovelox in elettronica, troppo tutor, troppo T-Red. Qui servono pattuglie fisiche, come diceva la Castaniti, che vadano a contestare l'uso del cellulare, non hai le cinture, sei ubriaco, tarocchi il cronotachigrafo, eccetera. Se non recuperiamo fisicità, facciamo il grande fratello della sicurezza stradale. No, anche perché se uno va rispetto al tutor, ma intanto manda messaggi in autostrada, esatto, mentre sta al cellulare. Mi chiedono di rispiegare, cerchiamo di rispiegare se abbiamo capito, abbiamo un minuto, questa vicenda della legge. Allora, la legge prevede tra 0,5 e 0,8 grammi per litro una sanzione amministrativa senza procedimento penale, da 0,8 in su invece si va nel penale. È successo però che una sentenza della Cassazione ha giudicato un guidatore che ha preso 0,81, un po' sopra, quindi il penale, ha giudicato che era in una situazione in cui non aveva provocato danni non era una situazione di estremo pericolo, per cui è stata applicata la tenuità del fatto ed è andato a casa senza nessun tipo di sanzione, neppure la sanzione amministrativa che avrebbe preso paradossalmente se avesse bevuto di meno, se fosse stato pescato a 0,7, perché il procedimento penale assorbe anche tutta la questione amministrativa e quindi libero dal penale non ha preso niente, nessun tipo di punizione, nessun tipo di reato, perché è stato giudicato la tenuità del fatto. È il paradosso della legge che era raccontato nell'articolo del secolo XIX e ci ha raccontato il procuratore di Genova. Io mi devo fermare, sì, vi ringrazio, ringrazio Giordano Biserni, che è presidente dell'Associazione Amici di Polizia Stradale, e la signora Giuseppa Cassaniti Mastroieni, presidente dell'Associazione Italiani Vittime della Strada. Colpire nel portafogli, non c'è altra soluzione, nel portafogli degli italiani. Se ti arrivano 300 euro di multa e magari qualche punto via dalla patente perché ti beccano al telefonino mentre mandi messaggi alla guida, poi ci pensi la seconda volta, ci pensi bene, se no 600 euro la seconda volta e poi vediamo come va. Allora, ci fermiamo qui con Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli in redazione, il nostro Peter Bescapè in regia. Il nostro motto è sempre quello: attaccare, attaccare, con magari gol di Bacca, attaccare. Riesce a girare, rete, rete. Godiamo di questi piccoli momenti, se Piccinini esulta come se avessimo vinto la Champions League. A domani. Attaccare.